Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. È tardi, 21 e 18 minuti. Bentrovati, buona serata su Blu Radio Veneto. L'appuntamento è il solito, il contenitore della serata Blu Radio Sera. Vi sta parlando Sergio Bortolami, dall'altra parte insieme a tanta gente c'è Maurizio Calzavara. Maurizio, questa sera i nostri ospiti vengono da lontano. Ho visto un'auto targata, aspetta che non ti sento, un'auto targata Cuneo. Da Cuneo, una peripezia per arrivare, però siete arrivati, la musica va oltre i fiumi che vanno fuori degli argini. Infatti bisogna essere storditi da fare una cosa del genere. Benissimo. Non è possibile. È stata una cosa meravigliosa. Ragazzi, il Trio Paraguay, buonasera Trio Paraguay, buonasera, vengono da Cuneo, quindi Padova. Cuneo Padova. Cosa strepitosa secondo me. La musica, come abbiamo detto, va oltre a tutte le cose, va avanti. Ecco, è caduta anche la lattina, è tutto live. Ok. Era piena. Dimmi. Era piena? Era vuota. Era vuota, assolutamente vuota. Ho anticipato il corridoio 5, quello. Ah, vero. Hai ragione. Stasera abbiamo una strumentazione strepitosa. Abbiamo fatto, cioè, giustamente Stefano, Sergio ha detto, siamo un po' in ritardo, ma siamo in ritardo perché abbiamo fatto un po' di prove. Tutto là. Il motivo è solo questo. Prove doverose. Magari Renato non passa neanche stasera, quindi. Ah, non allunghiamo. Questo non lo so. Benissimo, cosa parliamo? Parliamo come è nata l'idea di voi musicisti di formare il Trio Paraguay. Innanzitutto ci presentiamo, chi siamo? Allora, mi presento, io sono quello che canta. Tu sei quello che canta. Qui a fianco a me ho Claudio Dadone che si presenta da solo, che ha la chitarra. Deve parlare qui dentro. Devi parlare qua, vicino, ecco. Devi là vicino, ecco, il nostro chitarrista. Eccomi. Il nostro chitarrista. Leo Martina. A batteria, cioè la batterista. Alberto Parone alla batteria. Benissimo. Basso vox. Quindi questo è l'idea di tre musicisti più il batterista, stasera è una new entry praticamente. Mi hanno coinvolto. Hai fatto benissimo, una cosa meravigliosa. No. Dove parte l'idea di fare questo progetto al di fuori di tanti altri vostri progetti? Progetto Trio Paraguay. C'è sempre Leo. Leo, vai vicino al microfono, perché, Leo. Perché è più serio, più tecnico. Ah, più tecnico. No, assolutamente. Sì, no. Lui è più tecnico, poi no. Io e Dadone siamo... Inizia un po' dietro. Inizia da un'idea di... che è un'antica idea di convivio, che è quella più importante per l'essere umano, penso, no? Vedi come parla bene? Comunque il convivio è quello che lega i convivi in genere... Diciamo che il cibo, no? Quello è importante. Vino, queste sono le cose. Cibo e il vino. E certo, perché lo star bene assieme vuol dire anche questo. E da lì poi possono venire fuori molte idee, non soltanto, ma anche non soltanto musicali, diciamo, soltanto, poi limitarle è un po' così difficile. Comunque, l'idea musicale nasce proprio un po' da lì, da questo convivio, da questa. Se vogliamo chiamarli momenti appunto conviviali sono però noi abbiamo appunto, a parte il fatto di trovarci per questi motivi, abbiamo sempre avuto un legame tra di noi con la musica che ci ha accomunato, ecco. Poi magari alcuni di noi amano generi un pochettino diversi e questo forse è un bene, perché magari quando ci si mette assieme, che sei ragazzino, uno piace heavy metal, l'altro anche, secondo me si rischia un po' di emulare sempre qualcuno. Invece in questo modo, apportando dei contributi proprio molto differenti, ecco, lì si rischia di essere originali. E quindi, almeno. Poi è chiaro che noi abbiamo ripescato molto dai repertori di vari generi, però non so se sia la parola giusta ripescare, ecco. È un utilizzo, diciamo, che poi viene, come dire, sintetizzato in un modo... Io direi abbastanza originale, perché poi noi abbiamo fatto attenzione più che altro alla melodia, che forse il gusto per la melodia oggi si è perso un pochettino. Io dico sempre che qualcuno ha paura della melodia addirittura, perché si ha paura di cantare in un certo modo, di ricordarsi le cose, invece secondo me bisogna rischiare in questo senso, anche per recuperare proprio un patrimonio che noi in Italia abbiamo in grande misura, decisamente. Abbiamo dal Rinascimento, ce l'abbiamo da sopra. Assolutamente la melodia. Ma non è più che ricostruire, è costruire. Avete costruito un progetto più di costruire. Tanti elementi. Uno ha suonato con certi musicisti, un altro ha suonato con altri musicisti, tanti elementi. Sì. Il tuo Paraguay è, sono tutti questi elementi, la visione di un progetto che va al di fuori delle esperienze vostre, talmente sì, importanti. Ma poi chiaramente è un work in progress, quindi il materiale adesso che noi abbiamo appunto in serbo è piuttosto vasto, quindi questo non è che così sono degli estratti. Poi infatti se ascolterete ci sono pezzi che non ci sono nel disco, comunque, e ce ne sono volti, infatti stiamo già meditando di fare un'altra di produzione discografica, e questo insomma è una cosa che gli ascoltatori non sanno: il trio stasera suonerà totalmente i pezzi, quindi dal disco non sentiamo niente, per una, abbiamo deciso così. Sì, beh, una forma di rispetto anche verso gli ascoltatori, cioè. Per il viaggio, per il viaggio. Siete stanchi, avete voglia di suonare, sì, chiaramente. Diverse, abbiamo parlato di esperienze diverse. Tu, Filippo, hai cominciato, sei ideatore di un gruppo che si chiama i Trelilù. Ho detto sì, Trelilù, e sì. Cosa fanno? Il vernacolo delle langhe, una cosa di quel genere? Ma guarda, sì, non... Io ho scritto i testi di queste cose, di questo gruppo, e insieme poi abbiamo portato avanti questo progetto che ormai vive da 18 anni. E pensa in dialetto. Maggiorenne. È maggiorenne, ecco, quest'anno è maggiorenne. Pensa in dialetto, e penso che per voi sia la stessa cosa. Pensare in dialetto è un po' diverso, no? Certo, certo. Né meglio né peggio, solo un po' diverso. Quindi io forse avevo un po' la padronanza di questa lingua. E abbiamo scritto insieme, abbiamo creato questa storia che va avanti da 18 anni, che parla di quei posti, storie che la gente potrebbe riconoscersi in tutta Italia, però il dialetto ha dei limiti e ovviamente restano un po' nella regione e non vanno oltre. Mentre questo è un progetto diverso che ovviamente, parlando in italiano, pensa anche in italiano e va oltre confine. Ok, adesso dopo parliamo anche degli altri colleghi, ma cominciamo a suonare, visto che abbiamo poco tempo, abbiamo perso tempo per sistemare le cose, le abbiamo sistemate bene. Cosa dici, Sergio? Sei d'accordo con... Andiamo. Blu Radio Sera. Quando iniziamo gli spettacoli, solitamente c'è questo inizio e dice... Sono solito dire questa cosa, che immaginate un terrazzo sopra un palazzo dove non c'è proprio un orizzonte, qualcosa che si può vedere. La visione è fatta solo di sogni, però c'è una sdraio arancione, un tavolino basso, un ombrellone di paglia, come a Hawaii, uguale, a parte i gerani. Quasi niente, ho uno sguardo assente, indifferente, normale, fra tanti pesci nel mare, me ne sto qui a nuotare, a galleggiare, mi alimento di poche cose, mi accontento, vivo bene il mio momento, galleggiando. Ma ogni tanto i pesci che mi stanno accanto hanno strani atteggiamenti, ne risento. Ma se fossi a Hawaii, fra le sedie a sdrai, mango, mango, mango, mango e papai, e alle Hawaii, fra le sedie a sdrai, mango, mango, mango, mango e papai. Perché alle Hawaii, ad esempio, il pesce panna non gonfia, mentre qui gonfia. Sovente mi sento un po' così, come un pesce panna. E allora gonfio quasi a dismisura, a volte faccio anche paura. Che paura! Mi difendo, in questo modo mi difendo, di certi tempi non mi arrento, son tremendo, mi presento. Lallo, di razza pesce e palla, non è una razza da sballo, una palla, Certo, meglio essere uno squallo o una piovra fra il corallo che magna. Ma se fossi alla Hawaii fra le sedie a sdrai, mango, mango, mango, mango e papai, perché alla Hawaii il pesce palla lo sai che gonfia, gonfia, gonfia ma non scoppia mai. Gonfia ma non scoppia. Invece in questi tempi, di questi tempi forse si ha la sensazione che prima o poi si scoppia. Radio Sera. Maurizio! Bello, lo tu sei in mezzo a loro. Lo swing tu che lo mi prende, che mi prende, mi avvolge lo swing. Tu lo senti in diretta e lo sento in cuffia. Bellissimo, bellissimo. Grandiosi, grandiosi. Trio Paraguay su Blu Radio Veneto, buona serata a te Maurizio. Ok, abbiamo parlato di Filippo che è la voce, Claudio è la chitarra, sei stato storico collaboratore di Paolo Conte, sei stato collaboratore di Gian Maria Testa, hai suonato con Nada e adesso hai suonato anche con Philippe Valle, poi in Armonia Mundi e poi hai deciso di prendere il progetto Trio Paraguay. Un po'. Come mai? Come guarda, mai io ero talmente convinto che la prima volta che ho suonato l'RCA c'era da compilare un foglio in cui c'era scritto nome del musicista e strumento. Io ho messo nome del musicista, chitarra e strumento Claudio D'Adone. Dopo 5 minuti arrivo al mitico Podestà che mi dice: mazza, ma chi è sto chitarra? Sto chitarra ero io. Quindi l'abbiamo preso perché nessuno lo voleva. Ho capito. Bene, cioè sì. Tutte le esperienze, come ha detto anche Filippo, le hai concentrate in questo progetto. Ma sì, anche perché insomma ormai gli anni sono quelli che sono, 55. Si massa vicio. Sì, sei più giovane di me in ogni caso. Io pensavo che Maurizio ne avesse prima 53, poi 55. Ne ho 56, adesso... È sempre più vecchio. Sono più vecchio, sì. Però vabbè, lo spirito è quello che conta, vero? No, ma sì, ma poi, assolutamente. C'è questa storia molto divertente, in cui ci crediamo tutti, c'è un gran piacere stare insieme, a scrivere, a fare, quindi insomma. Esattamente. Leo è il tastierista, anche te hai suonato con Paolo Conte e poi hai suonato con i Blindo Sbarra, mi pare. Lo Sbarra, sì, erano almeno un'interessante formazione. Genovese proprio. Il nome viene dalla Blindo Sbarra, che è una ditta che fabbricava le strutture portanti della corrente industriale per il porto di Genova. E da questo, come dire, diciamo che i camalli del porto avevano l'uso di cantare alcune canzoni vecchie genovese. Loro hanno ripreso proprio queste cose, le hanno trasformate con il codice della musica nera americana ed è nato questa cosa, questo progetto che ha venduto parecchi dischi, tra l'altro. E io ci ho partecipato, diciamo, un paio d'anni e poi la cosa è andata un po' scemando, anche perché chi l'ha fondato in realtà ha pensato bene di fare una carriera in MTV che lo ha fagocitato completamente. E insomma, questa cosa mi è un po' dispiaciuta anche del fatto che poi no, chi vuole andarsi a vedere anche il sito insomma di Blindos Bar era una cosa, un bel progetto. Bello progetto. E infine il nostro new entry, cioè il batterista, se vuoi parlare anche a te, mettiti vicino al microfono. Ecco, il tuo background, cosa hai fatto? Che gruppi hai partito? Sono con Giorgio Conte, quindi siamo tutti in famiglia Conte. Tutti in famiglia Conte, esattamente. Lo sappiamo, morte e miracoli. Suono anche il basso in emergenza, di solito abbiamo anche il contrabbassista, ma in emergenza faccio questa cosa vocale. Un aneddoto: una volta c'era un fonico che ha detto impossibile, dal microfono della voce arriva il basso, c'è qualcosa che non funziona. E anche tu ti sei buttato nel progetto. Io sono stato coinvolto, stato fortunatamente da questi tre disgraziati, che ringrazio moltissimo perché è un progetto che mi piace tantissimo. Ho sentito il disco la prima volta e ho detto Madonna che pezzi, e allora sono rimasto. Ho detto posso suonarli. Okay. Sì. Avevi parlato di blues, secondo me nell'album, album che poi ci sarà un altro album, dicono, cioè tra le voci, mentre il microfono era spento, avete già di altri progetti per ampliare il discorso? Sì, ma diciamo che nell'altro, ecco, la matrice del blues non è una matrice musicale, il blues è un modo di essere, quindi riguarda proprio tutta la musica, secondo me. Anche i musicisti classici, quelli bravi, secondo me, hanno del blues, perché gli altri risultano un pochettino così schematici, hanno una comunicazione che si interrompe e arriva fino a un certo punto. I veri, io ho avuto l'occasione di ascoltare direttamente in una prova, proprio eravamo in una stanza del Conservatorio di Milano, Isaac Perlman, grandissimo violinista, e lui, vi assicuro che anche suonando la musica classica, suonando Stravinsky, ma di blues ne aveva una carica che andava bene, veramente, è veramente un grandissimo. E quindi insomma il blues per me è un po' tutto quanto. Nelle prossime cose io credo che si andrà un pochettino nella direzione del più popolare proprio ancora, cioè qui infatti in questa... Ma non è di nicchia il vostro disco, però ha delle cose, non dico difficili, ma da ascoltare, ci può dire questo forse? Sì, probabilmente il fatto che rimanga un po' di nicchia è perché probabilmente c'è una cura particolare che riguarda l'armonia e la melodia. Ecco, esatto. Adesso questo pezzo che abbiamo appena suonato è chiaro che è un richiamo agli anni 50, allo swing, cose. Altre cose invece, per esempio pezzi come Mambo che sono nel disco, sono un pochettino armonicamente, forse io non direi complicati, sono un po' complessi, ecco. Però io credo che abbiano comunque una melodia che tiene assieme il tutto, perché il problema quando è un'armonia complessa è che se non la tiene assieme con una melodia che ti arriva subito, appunto, risulta complicata, ecco, questo. Posso dire una cosa? Mambo secondo me è il pezzo più complesso, il più difficile, il più complicato a mio parere del disco, dei pezzi. Sì. Mi ha fatto vedere, la telecamera non lo vede sì, no, incredibile, ma più che proprio la sequenza di accordi, la struttura accordale, è proprio l'uso dei rivolti, infatti lui mi stramalediceva facendo il basso. Vuoi sentire la parte di basso? Perché sono tutti rivolti, ecco, i rivolti, spieghiamo agli addetti non lavoro cosa sono i rivolti. Allora, i rivolti, per farlo sentire direttamente, un accordo di stato fondamentale, questo, se si può fare. Ecco, questo è un accordo di stato. Un rivolto è questo. Quindi è lo stesso accordo, ma cambia la nota del basso e la nota successiva sono di conseguenza al basso. E questo è il risultato, è che collegando diversi rivolti si ha uno smussamento, si ha un addolcimento del senso dell'armonia proprio. Quindi forse a volte, appunto, se usato impropriamente risulta più complicato, per bene, cui si rema contro il compositore. Ma concludendo, io farei ancora una domanda di geometria e poi e poi il ragazzo lo sentiamo qui su italiano. suoniamo sì, un altro pezzo. Adesso te la suoniamo, perché perfetto, suoniamo quella. No, adesso suoniamo tutti e tre. Maestro ha detto tutti e tre. No, lui ha delle cose ben precise nella testa. Sì. Due o tre cose, una è questa. Perfetto, ok. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Tutti i treni viaggiano su rotaia e Accanto a chi guida c'è un posto davanti, automatico sterzare col volante. Se c'è curva, se c'è dosso, se ci sei tu. E non passa giorno che non ti pensi, fischio forte là sul passaggio a raso. E non per caso, ripeto non per caso, quando passi io non ti fischio più. Del resto è meglio non amare in certe particolari circostanze. Del resto è meglio non andare in certe particolari stanze. Tu lasci il mio ricordo altrove, parcheggiato in un binario tronco, ricoverato in una piccola stazione, in uno scalo d'interporto. Eppure ho immaginato una vita, la più comune che sa di normale. Lei mi ha fatto vivere un sogno, ma è un sogno da dimenticare. Ma tutti i treni viaggiano su rotaia, e accanto a chi guida c'è un posto davanti. Il mio posto è rimasto vacante, io sono un tale passato fra tanti. È passato fra tanti. Il Veneto come non l'hai mai sentito. Blu Radio Sera. Nota di servizio, se mi date più chitarra. Un pochettino di più di chitarra. Un po' più di chitarra, sì. Maurizio. Eccoci qua. Questo è un pezzo molto bello. L'atmosfera, L'avevo scelto per un mese, è andato in onda, che l'ho scelto come un pezzo da apripista al disco, però un pezzo significativo, molto evocativo, e qui l'avete fatto ancora in una dimensione diversa dal disco, chiaramente, ancora evocativo lo stesso. A me è piaciuto moltissimo e piace ancora anche adesso in questa versione. Bene, veramente. Grazie. Ma se i pezzi non evocano, non sono musica. Devono evocare. Sì, l'intento è proprio quello. L'idea di questo arrangiamento, non qui, chiaramente acustico, ma in questo arrangiamento particolare, con queste tastiere iniziali che avanzano, che allargano le note, praticamente, il pezzo stesso. L'idea di questo allargamento. Sì. Queste tastiere iniziali. Sì, questo all'inizio sono degli archi proprio. Qui bisogna spendere due parole anche sull'arrangiamento, perché noi ci siamo avvalsi della tecnologia, essendo tre poveracci, non potevamo così assumere un'orchestra. Lavoriamo parecchio. Lui. Comunque no, parte tutto, l'importante è quello che uno sente, però che sia fatto da una macchina o che sia fatto da un uomo, penso che comunque la mano dell'uomo passa sempre attraverso queste cose. Quindi, certo. E qui questo senso dell'allargamento è vero, i suoni sono più larghi, io qui l'ho iniziato invece con un pianoforte verticale, quindi è una suona un pochettino più dimessa. Sì, si chiama così, apra e chiama verticale. No, ma se ti vedono da qualche parte. No, ti stanno vedendo con le telecamere. In questo momento ti stanno vedendo con le telecamere. Assolutamente. È una parte verticale, no? Che appunto c'è scritto anche più... sullo scatolone. Alto. Verticale, devi tenerlo anche vero. No, sono più dimesso, più casalingo, ecco, più intimo. Insomma, sì, io credo che questo pezzo qualcosa evochi. Ecco. Certo, più c'è la chitarra di Claudio, che qui ha una dimensione maggiore, più profonda, più importante. Sì, sì, sì. Rispetto al pezzo del disco. Vuoi parlare, Claudio? Devi avvicinarti al microfono. Claudio, puoi parlare, ne è facoltà. Ecco, esatto. ma sai com'è che quando si fa tutto in pochi, bisogna cercare comunque in qualche modo poi di rendere quello che si voleva dire, no? Facendo un disco. Io devo dire che la tecnologia che noi abbiamo cercato di usare così in modo logico, ecco, perché la tecnologia in realtà ti offre delle infinite possibilità. Poi però, se tu vai a analizzare il risultato di una certa scelta sonora, no? In un brano ti accorgi che di 30 suoni, beh, forse ne salvi sì e no uno, però puoi dire che 30 suoni suonano tutti più o meno allo stesso modo, cioè è più un'illusione acustica del suono singolo sganciato da tutto, no? Perché poi non sai perché, però quando tu amalgami questo suono con altri elementi dell'arrangiamento, mazza, tutto decade, tutto. Per cui in queste cose noi cerchiamo comunque di essere razionali, insomma, cioè razionali al brano, al pezzo che facciamo, quindi non aggiungo nulla di particolare, nulla di più, però cercando in pochi quali siamo di così accompagnare l'ascoltatore in una certa dimensione che gli permetta di comunque fruire il pezzo, che poi gli piace o non gli piace, questo è un altro discorso. Posso dire la frase? Mi preparo solo una frase che dico tutte le volte, ormai da 10 anni questa qui mi è concessa, è che cerchiamo di sposare, di sposare il testo a un mondo. Ho capito. Lui si è già sposato 2 volte. Sì, no? Ma a parte quindi, questo, a parte questo. Cioè, sono il più accreditato a dire questa cosa. E adesso sta facendo. Ho capito. Cioè, la voce è un trait d'union di queste sonorità. La voce di Filippo è al centro, intorno alla voce di Filippo si creano le atmosfere praticamente. È così? Sì. Io la vedo così. Sì. Poi probabilmente compreso batterista, New Entry, dobbiamo parlare con batterista. No, certo. Ma probabilmente, io lo so, il tipo di voce un po' particolare, anche che ha anche qualche inflessione della nostra terra, no? Certo. Ma noi, come dire, siamo anche un pochettino orgogliosi di questo, perché insomma, poi io so che in questo paese un pochettino quella che ha vinto e che è passata a volte è la romanità, no? Perché siamo, e allora, non so, come possono essere orgogliosi loro della loro... Noi siamo orgogliosi di essere piemontesi, ecco, e così, insomma, cantiamo in questo modo, cantiamo e suoniamo in questo modo. Ma chi sei che sto chi dare? Ricordi di gioventù molto molto, molto belli, ricordi importanti, però sì l'RCA Roma, bello, molto, molto carino, quando esisteva ancora l'RCA, sì che poi per esempio la nostra storia con Conte, perché sì, poi c'è Paolo e Giorgio, e nacque da una cassetta su acquistata in autostrada, i grandi successi dell'RCA, e in mezzo a tanti brani, diciamo, usuali, ne spiccava uno che era Onda su Onda. Dice, sì, mazza che pezzo fatto da lui, no? Che tornando a casa incontrò un amico e disse: guarda, ho ascoltato questo brano veramente fuori. E lui mi disse: ma guarda, questo qui è di un avvocato di Asti che io conosco. Boh, tutto iniziò così, un colpo di telefono, avvocato, complimenti, e la risposta formale: lei suona? Ha detto sì, suono. Allora venga a mangiare a casa mia, perché io andai a mangiare a casa sua con la chitarra e lui mi disse: ma senta un po' questo brano qua, ed era Via con me. E la nostra storia iniziò così, in modo quindi assolutamente fortuito. E poi di lì io trascinai dietro in questa esperienza tutti i miei amici, Leo, Renzo Marino, poi Alberto. E questo fu un po' l'inizio, ecco, diciamo, di una storia, una carriera di esperienze, insomma. Certo, tutti. Certo. Voleva trascinare anche me, però invece, poi, ma però sua madre non ha voluto. Non c'è stato verso. Ricordo di questo fatto qua, che la mamma non ha voluto. Però io ho trascinato lui nello stesso modo, perché la prima cosa che ho fatto, prima di mettermi lì, perché la cosa è nata proprio così, io avevo dei testi e ho invitato lui a cena. ho pagato io, ti ricordi? Sì, mi ricordo. Sì, ho pagato io e dopo questa cosa qui poi è subito arrivato anche Leo. Vabbè. E poi insieme. Ho capito. Hai pagato sempre te o hai pagato Leo? Ho sempre pagato io. Ok. Cosa dici, Sergio? Facciamo un altro pezzo? Andiamo a sentire qualcos'altro dal vivo, su. Sì, facciamo un pezzo che non è incluso nel disco, quindi... Quindi è una new entry per la nostra trasmissione stasera. Blu Radio Sera. Scusa, devo alzare il volume. Pochino. Ce l'hai? È il bello della diretta, qui non nessun filtro. Sarebbe meglio così e dirti sei l'unica, ma se ti dico che vado tu mi chiedi ma dove? Vai. Lei non mi chiede chi sei, lei sa che tu vivi e non gli importa del resto per restare lo stesso con me. Se vuoi passeggiamo così a una media distanza, non sperare in un forse, né tanto meno in un se. Lo so, se fossi diverso, se fossi capace, se fossi qualcosa che non sono più, se fossimo insieme, se tu fossi la sola, se fossi un amore che non sono più. Se vuoi passeggiamo così a una media distanza, ma non sperare in un forse, né tanto meno in un se. Sarebbe giusto così e dirti sei l'unica, ma adesso è meglio che vada, se ci vediamo domani. Non so, non so, non so. Radio Sera. Blu Radio Sera. Da Cuneo il trio Paraguay in diretta negli studi di Blu Radio Veneto, a te Maurizio. Ci poteva dopo la fine. Oh yeah! Alla fine. Oh yeah! Qui c'era un po' di America. È un po' di America. Una bella America. Nel disco c'è una specie, posso dirlo, un concept disco, c'è il discorso del viaggio dalle osterie piemontesi fino alla Croce di Malta. Sì. L'idea del viaggio è quella fatta da un terrazzo. È fatta da un terrazzo perché è un uomo che guarda e vede lo scorrere dell'umanità sotto i suoi occhi. C'è un guardone praticamente. Quando la poesia si impone. Ecco. E lui vede tante situazioni, queste situazioni gli fanno pensare a delle cose, ma delle cose umane, delle cose di tutti i giorni. C'è la storia di chi magari è andato in galera, anzi il pezzo che facciamo adesso può essere proprio Mambo che può, c'è la storia, non so, ecco, dei sogni di un bambino pensando, no, alle poppe della sua vicina di casa, e, diciamo ragazzino, ma se no facciamo, sì, vabbè, ragazzino. Se permetti, ci può essere lo sguardo sopra e sotto, quindi Dio chissà dov'è, chissà com'è. Quindi sono i viaggi della mente di un uomo che sul terrazzo di casa sua. Però sì, sono d'accordo con te. Treni, ma anche i velieri. In Mambo ci sono i velieri, mi pare. Sì, la presunzione di Mambo, nemmeno nella scrittura, era quella di comprimere una storia, proprio una storia che voleva solo far sentire degli odori e qualche cartolina, quindi compressa, come se fosse un libro compresso, ed è complicato. Certo, certo. Spiegarlo prima a volte è stupido, quindi non importa, si sente un po' delle sensazioni, questo è quello che passa. Decisamente. Noi abbiamo tante sensazioni e dobbiamo ancora averne altre fino alle 22:30, quindi abbiamo tempo, suoniamo ancora. Cosa? Mambo. Ok, Mambo, vai. Io non lo so. Ma come? Vabbè, proviamola. Improvvisate. Aperto, tracciano rotte improbabili come il deserto, una noce di barca che sfiora la riva e le foglie di un nanifero, ho un forte presagio che salga già l'alta marea, ma qui non c'è mare per vivere, non c'è una tranquillità, sono un relitto che cigola e non sa dove va. L'ho incontrato una sera in un tango sulle note di un bandoneon, rossa balzana da quattro su passi Bayon, e non so cosa fosse, se il bere o se il fumo di quel caffè, senza parlare parole io l'ho portata con me. La stanza era un gran calendario dove gli incontri passavano, lasciando il tempo più anonimo, uno dei senza età. In una finestra di cielo navigo senza te, veliero che va alla deriva, cullato da un tango in un caffè. Solitario in un vicolo stile che non ha luce né varietà, ruota su un disco al vinile la mia vita che va. Nelle mani un cristallo di cera e un brandello di fotografie, titolo cronaca vera, sì, ma la foto era mia. Ma qui non c'è mare per piangere, gridare no, non si può. Sono un relitto che cigola, per quanto non lo so. Finestra di cielo, navigo senza te, un veliero che va alla deriva, un lato da un tango in un caffè. Finestra di cielo, navigo senza te, un veliero che va alla deriva, cullato da un tango, tango in un caffè. Trio Paraguay, Maurizio. Da Cuneo. Sì, da Cuneo. Ricordiamolo, cavolo, la strada che si sono fatti. Tanta strada. Tanta strada. Ma il risultato è questo. Ottime esecuzioni, chiaramente. Ma mi è sempre piaciuto perché aveva un arrangiamento particolare. C'è qua una cosa volevo chiedervi. Quanto c'è improvvisazione quando suonate questi pezzi, praticamente? Li reinventate oppure no? Nella composizione o nell'esecuzione? No, nel live, quando fate il live. Ma allora, io, ecco, questo è un po' la filosofia degli Eagles in queste cose. Cioè, gli Eagles fanno il loro concerto con i loro soli senza cambiare una sola nota. Qui, secondo me, in questo pezzo, appunto per la complessità di cui parlavamo prima, secondo me è difficile andare a cambiare delle cose. Sono melodie connotate. Lui ce la fa. Sì, lui ha fatto una piccola excuse. Perché la realtà delle cose è questa qua. Che quando tu parti con una nota, sei convinto di essere su quella giusta, invece se su quella sbagliata, allora lì ti arrangi, ti aggrappi, finisci in altro modo e vai, ecco. Però un pezzo del genere, se non lo fai come scritto, diventa un casino. No. Non parlo di Mambo, in generale parlo io. Però c'è una certa libertà, che cioè alcuni pezzi si prestano più a parti, diciamo, libere, improvvisate, cosa, proprio per il fatto della struttura armonica. Questi sono un pochettino più, come dire, costretti, ecco, nella loro. Poi costretti magari non è proprio la parola giusta, perché però, come dire, hanno una forma, una connotazione più specifica, ecco, quindi a livello proprio compositivo. Poi, insomma, questo qualcuno magari può vederlo un po' come un difetto, però io sinceramente non so, quando sento anche alcuni pezzi che contengono degli assoli, adesso mi viene in mente, ma di cui è veramente difficile andare a cambiare anche soltanto una nota dei soli che ci sono. Mi ricordo, dunque, aspetta, ci sono dei pezzi dei Queen anche, sì. Il solo che c'è nei Queen di Brian May, quello non so, non mi ricordo, mi sembra forse We Will Rock You, dove la fine. Andare a cambiare quella cosa lì, farne un'altra, secondo me diventa una gara difficile, diventa. Poi, se posso dire, no, il maestro qui, quello che sta parlando, no, sta molto meglio quando ha tutto ben prestabilito. No? Lo portiamo un po' fuori intanto, lui ama molto, ha questa tranquillità che adora, cioè, e oltretutto lui è un metronomo che riesce a fare sempre, insomma, a ripetere alla lettera queste cose. No, beh, poi ci sono, per esempio, il pezzo che seguirà è un esempio invece del contrario, cioè esatto. C'è una largamente improvvisata. Quindi è bello dire una cosa e poi ti smentisci dopo tre minuti. È giusto che sia così, pieno di tre minuti. È bello darsi delle regole per poi trasgredirle, questo è il piacere, certo. Anche se no. Certamente. Lo sentiamo? Ok, certo. Thank you. silenzio lunghi fiati le mie fantasie correvano là, dove nessuno avrebbe immaginato che un bambino come me avrebbe osato. Le sigarette, le sue rotondità esagerate, anche adesso che riconosco bellezze manifesti, ma niente di così eccitante c'è. Quante volte ho sognato le sue carezze, non ho mai saputo usare un po' di più di un imbarazzo, e sogniamo di noi. Oggi scalzo insoddisfatto di tanto usare che non sa. Beh, ti voglio dedicare un attimo che non è più della mia età. Sarima, se prima fossi stata tu, no, non avrei sperato in niente di più. Sarima, se prima fossi stata tu, no, non avrei sperato in niente di più. Sognato le sue carezze, non mai saputo usare un po' di più di un imbarazzo, e sognavo di noi. Oggi scalzo insoddisfatto di tanto usare che non sa. Beh, ti voglio dedicare un attimo che non è più della mia età. Se prima fossi stata tu, no, non avrei sperato in niente di più. Sarima, se prima fossi stata tu, no, non avrei sperato in niente di più. In silenzio lunghi fiati le mie fantasie correvano. No, dicevamo. In silenzio lunghi fiati le mie fantasie correvano là. Radio. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Eccezionali. Ladies and gentlemen, Trio Paraguay. Okay. Il fantasma del blues. Sì, c'era. Poi il stop and go che ha fatto il batterista mi sono piaciuti un casino, decisamente. Molto bravi. Grazie. Ok, una cosa avevo letto nella biografia vostra, che avete vinto il primo premio Caber, un premio importante. Sì, nel 2005 mi pare. Sì, 2005, abbiamo fatto questa selezione a Milano e poi sono andati via Reggio e... speso 1.000 euro. Avete speso 1.000 euro di pesce? No. Il premio per questa cosa, mi ha detto, cacchio, se cominciamo così la carriera andiamo benissimo. Perché no, c'erano quanti erano? 2.000 euro. No, 2.000 euro di premio. E siamo rimasti lì 3 giorni. Secondo giorno sono finiti. Ma non perché abbiamo perché a Viareggio c'è il carnevale. Perché a Viareggio c'è il carnevale. Insomma, anche Leo si è mangiato almeno quasi sui 100 euro su un cavallino con la pistola. Ti ricordi? Abbiamo le foto, ve le mandiamo. Con la pistola. Benissimo, benissimo. No, a parte questo. No, è stato una bella cosa. Sì, una bellissima cosa. Sì, sono contento. Siamo contenti di questa cosa qua. Assolutamente, sì, sì. Penso che adesso non so quanto valore oggi possono avere i premi in Italia, perché insomma, non so, credo che sia un paese, posso dirlo, che dove la meritocrazia è andata un pochettino, caduta un po' in disuso. Ma, ma dai, ma no, ma cosa dici? E allora adesso si seguono le classifiche, cosa? No. Guarda alla Fiera del Bue Grasso Carrù, ecco. Il primo premio. Non è che... No, non so se riscontrate anche voi questa cosa. Secondo me la musica è un po' ingessata oggi in Italia, forse. Ma ci sono qualche segnale di rinnovamento? Musica che fate voi è un segnale di rinnovamento, va fuori di tutti gli schemi, secondo me. Ma ecco, sì, no, andare fuori dagli schemi sicuramente, perché non ha un disco. No, ecco, poi il disco è considerato un pacchetto, per cui se tu... Io, lui mi ha dato l'altro giorno un disco, un bel disco di Tom Waits, no, per esempio. Sì, quale? Il titolo, aspetta, Mules Variations. Bel disco quello. Sì, un bel disco. Io però devo dire che secondo me la sua preoccupazione è stata quella di dare un suono al disco che fosse quello che fosse, e questo secondo me nasconde un po' l'intento della vendibilità del disco, perché riconoscere subito, invece secondo me il disorientare come abbiamo fatto noi, ecco, è un po' anticommerciale, no? In questo senso. Infatti. Però non so, però io lo sacrifico la biblioteca. Sì, ma ricordiamo, ricordiamo un momento dove si può acquistare il vostro disco, che la casa discografica almeno lo possiamo ricordare. Sì, è distribuita da Egea e penso che adesso non so i negozi, penso che se fai l'elenco dei negozi qua non è che però a Padova ne sappiamo pochi, almeno io di negozi. No, ma ci sono le reti distributive. Certo, sì, sì. Il vostro Egea sito. È una buona distribuzione. Attraverso il vostro sito, sì, si trova. Sì, certo. Sì. Lo citiamo il vostro sito, visto che ti sembra. www.trioparaguay.it. Perfetto. Paraguay staccato. Sì, esattamente. 13 pezzi, 13 momenti, 13 ritratti, 13 diverse strade da percorrere, però che abbiamo detto precedentemente con un tema presunto tale, il viaggio sempre qui. Sì. Un viaggio, come abbiamo detto nella stazione. Un viaggio, come ha detto giustamente Claudio. Nella più pura immobilità del sé, ecco, questo era. Mamma mia, che bella cosa. Questo, vabbè, avevo bella. Altro che Trenitalia. Sì. No, comunque sì, è vero, il viaggio, cioè, caspita, ma il viaggio, quando uno non si muove, viaggia dentro di sé, secondo me è la cosa più... È un grande viaggio. Sì, sì. D'altronde Salgari, non so mai come si dica, però... Non si è mai mosso da... Non si è mai mosso. Esattamente, pure ha inventato tante cose. Sì, sì. Anche molti musicisti sono, hanno visto cose come per esempio Debussy, è uno che non si è mosso molto dalla Francia, però caspita, tutti i richiami, vabbè che c'erano altri fermenti nei primi anni del Novecento a Parigi, insomma erano, però quello, il viaggiare è anche quello, portare per esempio nel proprio paese e accogliere altre culture, altre, e questo secondo me è un messaggio importante anche. Certo. Sergio, cosa dici? Un altro pezzo? Vai. Siamo pronti? Vadino. Sì. Abbiamo più tanto tempo, io volevo fare... Scegli Pippo. Vai Filippo. Vi facciamo l'uomo nudo. Ok. Tra l'altro, posso ancora dire una cosa? Sì, vai. Se guardate su YouTube ecco. C'è... appunto, di uomini nudi, sì, no, ma no, non quella pagina lì, okay. Che guardi sempre, no, dicevo, su, clicchi Trio Paraguay e vedi che giù in fondo vedi apparire un piccolo indiano e vicino c'è scritto nudo, no? Cliccate lì perché lì è un video che abbiamo fatto nel 2003 in completo delirio, non, però non ci vergogniamo mai di quello che è in fondo, poi vabbè, un po' okay. Sì. Sembra un po' strano, ma non mi sono mai spogliato davanti a nessuno. Qualcuno forse l'ha pensato, ma non mi sono mai spogliato davanti a qualcuno. I vestiti quelli non contano, quando si parla a certi livelli. Io lo so che mi capisci, tu che in testa hai ben altro che capelli. Forse un giorno se mi capita, spero non sia troppo tardi, perché si perde un po' la voglia di mostrarsi davanti a certi sguardi. E non si sa fino a che punto, non si sa se capiranno che io ho già subito un danno. Capita, spero solo che non sia troppo tardi, perché si perde un po' la voglia di mostrarsi nudo davanti a certi sguardi. I vestiti quelli non contano, quando si parla a certi livelli. Io lo so che mi capisci, tu che in testa hai ben altro che capelli. E non si sa fino a che punto, e non si sa se capiranno che non è facile spogliarsi per qualcuno che ha già subito un danno. Oh, non è facile spogliarsi da Trieste in giù, se sei giù non ti spogliare da Catania. Ci tiene molto. I vestiti non contano, certi livelli, non so se mi capissi, tu che in testa hai soltanto due capelli. Potete comprare tutto quello che vi serve in qualsiasi situazione, in qualsiasi momento. Venite pure qui, cioè la radio sarà disponibile anche per questo, in qualunque ora, qualunque minuto, qualunque giorno, da qui in poi. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. No, stavo guardando sta cosa qua. Non so se la sentite. Allucinante. Il video che mi hai detto, vabbè, Maurizio. Sì, avevate iniziato con un pezzo Tex-Mex, secondo me. All'inizio era un po' Tex-Mex, io l'ho sentito così. E poi non sono riuscito a capire. Nel senso positivo del termine. È un delirio. Un delirio, ma un delirio ragionato. Un delirio bello, un delirio da sentire, da ascoltare, da muoversi, da divertirsi. Poi... l'occhio è sempre un pochettino verso il teatro anche in queste, certo, cioè, certo, sono alcune cose che sono un pochettino a un taglio un po' teatrale, volendo anche magari un po' cinematografico, sì. Però questo è un po' pretenzioso, comunque qualcosa di cinematografico c'è, per esempio la prima citata Croce di Malta, che è una storia di un anziano, sì. dei nostri posti, che, perché noi abbiamo degli illustri di personaggi che sono stati come Filippi, noi abbiamo parlato di un personaggio magari un pochettino più modesto come, ma queste persone, Filippi poco conosciuto, di Montanera, del suo paese natale proprio, è fratello di mia nonna, fratello, ecco, questo personaggio è andato da, in Francia, dai Lumière, quindi, ed è stato un pioniere del cinema, proprio, però. Perché infatti però è poco conosciuto, se diciamo che sono Pio, cose... Pio XII, mi sembra, le immagini di Pio XII sono girate da lui. Sono girate da lui, quindi sono cose... No, invece il nostro nome in dialetto poi si chiama Cecucine, proprio perché Cecu sarebbe Francesco e Cine va da sé, non è il cognome, però... questo personaggio, questo anziano, io mi ricordo, ero bambino proprio, e lui arrivava nei paesi con la bicicletta, un carretto, con la macchina da proiezione del cinema, di quelle pesantissime, quelle una volta. E arrivava, mi ricordo, per imbonirsi il clero, arrivava con il megafono e con la canzone, con il giradischi, cosa, e Noi voglia Dio, c'era, allora il prete era contento, Vergine tranquillo. Maria, beh, certo. E poi proiettava nei cortili delle cascine, questi lui faceva dei montaggi tutti strani, metteva degli spezzoni di film attaccati, insomma, e la gente però era contenta, insomma. E questo è il pezzo, appunto, La Cosimata, l'ultimo, è dedicato a questo personaggio, anche perché se n'è andato pochi anni fa, purtroppo, un paio di anni fa, sì, però anni prima fa. Prima che fosse, prima che succedesse il fattaccio, sì, noi avevamo cantato questa canzone proprio scritta per lui e per quella sera lì dove era stato, insomma, festeggiato. Da tutto Fossano, è stata una bellissima serata, sì. Era incazzatissimo perché non, sì, perché non gli fregava niente, onestamente voleva andare avanti lo stesso, sì. Senza. E quindi Nova Cinema Paradiso ha copiato da copiato si è ispirato, podassi, sono stati dei riferimenti, parecchi personaggi di quella fatta lì, con l'interesse verso il cinema, ecco. Però veri e propri pionieri, insomma, ce ne sono stati pochi, come questo Filippi, certo, insomma, certo. Poi noi abbiamo ad Asti, abbiamo Pastrone, che è stato regista di Cabiria, insomma, siamo stati, la nostra zona, insomma, è molto cinematografica, insomma. Esatto, il cinema tecchisce molto, esatto. E allora c'è Cucine a questo punto. Ah, ok, perfetto, vai. E adesso che nel tempo l'amo viola, lui si ricorda ancora di come gira il cinema, e adesso che è tutto più automatico risulta anche simpatico il suo modo di far cinema. Il cinema però è una cosa seria, malgrado la miseria, c'è qua fatto il cinema, e adesso che non ha più un motivo, neanche un obiettivo, continua a fare cine. Lasciami sognare ancora, come hai fatto allora, quando portavi il cine. Lasciami un ricordo, un altro sogno, oggi che c'è più bisogno di sognare dentro al cine. Potessi almeno una volta sola ritornare ancora, sedermi nel tuo cine e pensare un poco in bianco e nero, avvolto dal mistero di come gira il cine. Potessi almeno una volta sola ritornare ancora, sedermi nel tuo cine e pensare un poco in bianco e nero, avvolto dal mistero di come gira il cine. Lasciami sognare ancora, come hai fatto allora, quando portavi il cine. lasciami un ricordo, un altro sogno, oggi che c'è più bisogno di sognare dentro al cinema. Se fosse che il tempo ritornasse, girare per le piazze, verrei con te a far cinema, guardare un film sul municipio, ricominciare da in principio, è arrivato c'è cucine. Guardare un film sul municipio, ricominciare da in principio, questo mondo è tutto un cine. Blu Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Serata di classe, Maurizio, questa sera Blu Radio Veneto. Poi però in privato sono un po' burloni. Esatto, raccontavano in privato una cosa molto bella, che quando vanno a fare delle tournée, prima cosa che decidono è dove andare a mangiare, chiaramente. In fondamentale con la pancia piena puoi discutere di qualsiasi cosa, di qualsiasi cosa. Qui abbiamo degli appoggi di un certo livello, perché abbiamo un paio di amici che insomma erano quelli che andavano a testare per Slow Food. Quindi tu alzi il telefono, dici dove sei e loro ti dicono il posto, vai cosa là, mangiare, vai qua, cosa bere, ma devi stare attento, sempre guardare la carta dei vini, perché loro ti dicono cosa bere, però ti ficcano giù delle mine che ti storgono di brutto, quindi devi stare molto attento. Le indicazioni però sono sempre molto giuste. Perfetto, è una cosa molto positiva questa. Interessante, perché musica... Guide viventi. Esattamente, musica e cibo sono un collegamento totale. Si vengono dalla terra. Vengono dalla terra tutti e due, al 100%. Arrivano allo stomaco. Certo. Suoniamo ancora, dai, cosa suoniamo? Sì, ti facciamo sentire una cosa. Avevamo per sfortuna, non c'è più... un bravissimo scrittore che si chiamava Nico Rengo, e ha scritto dei bellissimi libri, e l'ultimo, avevamo giocato parecchio con questa cosa qui, le parole di questa canzone sono sue, noi le abbiamo aggiustate per la metrica, per quello che ne concerne, per farla diventare una canzone, e avevamo cucito questa melodia, questa, ed era uscita col suo ultimo libro. E con la presentazione del suo ultimo libro, che il libro è Isla Bonita, e così anche la canzone. Come una spina che non ha via d'uscita. fiore autunnale baila fino a farlo sanguinare e ancora baila, non smettere un minuto, non fermarti se grido aiuto, non me lo puoi dare come non mi puoi dare il mare. Bonita, sabbia che si sgrana fra le dita, baila, non smettere un minuto, non fermarti se grido aiuto. Radio Sera. Siamo agli sgoccioli, Maurizio. Certo, volevo solo chiedere in 30 secondi i prossimi live che farete. Dunque, parlo così. Il 24 a Roma, perfetto. 25 Napoli, 26 Firenze, 27 Firenze, 28 Bologna, questo in linea di massima è... Però sì, benissimo, girate di novembre, piccoli spazi, piccoli spazi, piccoli spazi, situazioni parasport, parasport, stazioni sciistiche. No, non sarebbe quella dimensione per questa musica, no? Certo, cioè, certo. Sì, a Bologna dobbiamo costringerci allo stadio Dallara, però. Sì. Ok, Sergio, cosa dici? Abbiamo finito allora, praticamente. Abbiamo finito. Finiamo però chiaramente suonando dal vivo. Dal vivo, assolutamente. Sì, lasciamo scegliere a al cantante. Al cantante Filippo. Allora facciamo una cosa buffa. Ok. Va bene? Benissimo. Visto che il trio Paraguay è trio Paraguay, noi canteremo una canzone in paraguayano antico. No. Batterista compreso, Ovviamente. Ovviamente. Batterista antico. Batterista antico. Questa canzone non è nostra. È dello Paraguayos. Paraguayos. Mi hanno detto che si dice Los Paraguayos, ma io dico Los Paraguayos perché io so il paraguayano antico. Ah, lei no. Antico, sì, era diverso. No, questa è una canzone dello Paraguayos che sono un gruppo che negli anni 50, se voi andate a vedere, hanno venduto milioni di dischi, veramente. Sì. E adesso non so se qualcuno se li ricordi, però il capoccia era un tale Luis Alberto del Paranà, che già il nome mi piace fantastico. Tantissimo. Io mi scuso con appunto tutto il gruppo Los Paraguayos e ringrazio tutta la popolazione che ci ha ascoltati, insomma, grazie Padova, grazie a voi a Padova, avete fatto uno sforzo notevolissimo, siete stati bravissimi secondo me, sfidando le ire del tempo. De tanto soñar con tu boya faz, me parece un sueño por la realidad. Eros eres tú, visión celestial, porque me gallotito, cariñito mío, se quita si fa. De tanto soñar con tu boya faz, me parece un sueño por la realidad. Eros eres tú, visión celestial, porque me gallotito, cariñito mío, se quita si fa. Toma nota linda de que tú me quieres con el corazón, dale. Dale que mañana sí que doy a punto solo con tu amor. Quita, quítame ese amor de mi chiquita linda que el amor por ti. Ole, ole que mañana sí que tú me quieres como yo a ti. Non ho la più pallida idea di che cosa ho detto. E tanto sognato con tu poi a far. Me parece un sueño por la realidad. Eros eres tú, visión celestial. Porque mi gallotito, cariñito mío, se quita si faz. Doma, doma no tan lindo lo que tú me quieres con el corazón. Dale, dale que mañana sí que voy a punto solo con tu amor. Quita, quítame ese amor y mi chiquita linda que el amor por ti. Ponle, ponle que mañana sí que tú me quieres como yo a ti. Doma no tan lindo lo que tú me quieres con el corazón. Dale, dale que mañana sí que doy a puto solo con tu amor, guita. Quítame ese amor, mi chiquita linda, que el amor por ti. Volle, volle que mañana sí que tú me quieres como yo a ti. Volle que mañana sí que tú me quieres como yo a ti. Grazie, Padova. E grazie, Blu Radio, grazie. My friends in high places, I don't know which is which or who is whom. They've stolen each other's faces. Janet is there with her high head and hair full of bedroom feathers. And Janet is known to make dead men groan in any kind of weather. I crawl over to her, I say, hey baby, I say, hey Janet, you are the one, you are the sun, and I'm your dutiful planet. But she ain't down with any of that, she's heard that before. And I say, uh-huh, yeah, you're right, 'cause I see Betty X standing by the door with more news from nowhere. More news from nowhere. Yeah, more news from nowhere. More news from nowhere. And it's getting strange in here. Yeah, it's getting stranger every year. More news from nowhere. More news from nowhere. Yeah, more news from nowhere. Betty X is like Betty Y minus that fatal chromosome. Her hair is like the wine dark sea in which sailors come home. I say, hey baby, I say, hey Betty X. I lean close up to her throat. This light you are carrying is like a lamp hanging from a distant boat. It is my light, says Betty. Betty X says this light in yours. And so much wind blew through her words that I went rolling down the hall for more news from nowhere.